aspirina, dammi un'aspirina. Mal di testa. Scrivo questo testo e mi viene il mal di testa, tentando di dare un senso a questa forma di protesta contro tutto ciò che è sporco. Mal di testa quando sentono allupparci e la gente ci resta. Fumo passivo sulla scena la metina, ricordando il mio passato e ligri spelli razziasina, baschiando in mezzo al fumo quando non esce qualche rima, cercando da nulla con forza di arrivare in cima. Resto nudo e manifesto contro ogni singolo gesto che porta soldi ad uno e merda a tutto il resto. Di fronte alla feccia resto fermo, non confesso, pregando di avere tempo e di non andarmene così presto. Scrivo questo testo e mi viene il mal di testa, tentando di dare un senso a questa forma di protesta contro tutto ciò che è sporco. Mal di testa quando sentono allupparci e la gente ci resta. Mal di testa, non resisto più a questo silenzio. Giro solo per la strada, mi guardo intorno e penso. Guardo le facce della gente che nasconde la stanchezza. Non vede, non se lo chiede, c'è qualcuno che si attrezza. La tua tranquillità, una tua invenzione, un'illusione. Da quando che sei nato che ti fottono, coglione. Ormai la gente ci rinuncia a fare attenzione. Prova a fare una denuncia, sosta nel cemento, quale stazione? Il silenzio nell'orecchio che ti impone di seguirlo, come per Pinocchio, questo cazzo di grillo. Grillo che parla troppo e molti, pagato dallo Stato, si fa tutto per i soldi. Scrivo questo testo e mi viene il mal di testa, tentando di dare un senso a questa forma di protesta contro tutto ciò che è sporco. Mal di testa quando sentono allupparci e la gente ci resta. Scrivo questo testo e mi viene il mal di testa, tentando di dare un senso a questa forma di protesta contro tutto ciò che è sporco. Mal di testa quando sentono allupparci e la gente ci resta. Situazione di sorriso finto come nelle Barbie, gente tranquilla che a mattina si attagliare i varpi. Al bar gente di merda con un accento di merda che discute su vocaboli di merda come sgarbi. Qualcuno dia un'occhiata come chiudo le mie rime, spazia i giovani schiacciati in una scatola come sardine. Con quel vecchio di merda che controlla il mio paese, che per fare una foto indossa pure le scarpe tese, che sta lì come un burattinaio la mattina, che poi va a finire a mangiare a pranzo con Totorina. Macchinoni grigio fumo e colletti tutti bianchi, e tu botte gaio del cazzo che per mangiare arranchi. Ma la salita è troppo dura per farla con una lambetta, ti fa aiutare da qualcuno che ci si aspetta. Ti consimo se ginocchia perché ti dia retta, cacciamoci dalla testa tutta quest'aria di festa. Scrivo questo testo e mi viene il mal di testa, tentando di dare un senso a questa forma di protesta contro tutto ciò che è sporco. Mal di testa quando sentono allupparci e la gente ci resta. Scrivo questo testo e mi viene il mal di testa, tentando di dare un senso a questa forma di protesta contro tutto ciò che è sporco. Mal di testa quando sentono allupparci e la gente ci resta. Joypad, lose yourself, dammi un'aspirina, dammi un'aspirina. Mal di testa.